Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È sempre Voi siete qui, è sempre il meglio di Voi siete qui, è martedì 10 luglio del 2012, buongiorno a tutti, io sono Matteo Caccia, questa è Radio 24. La storia che sto per raccontarvi oggi è, secondo me, la storia più famosa di questo programma. Cioè è la storia più famosa della stagione appena passata, 2011-2012. Quando hanno cominciato ad arrivare i racconti, noi ci siamo accorti, parlo di un anno fa ormai, che si potevano dividere in categorie, più o meno, no? Ed erano infanzia, ce n'erano moltissimi, amore, ce n'erano moltissimi, c'era il lavoro, poi c'era un pochettino di sport, c'era un po' di avventura, e poi c'erano i racconti che invece raccontavano storie legate alla scuola, agli avvenimenti scolastici, per cui voti, note sul diario, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è un po' la madre di tutte le storie sulla scuola. L'ha scritta questo dentista per cavalli. Lui, quando gli chiedo se è un veterinario, dice sempre di no. Lui è un dentista per cavalli, si chiama Massimo Neriotti, vive a Torino e la storia è ambientata proprio in una scuola fuori Torino. Ha diversi protagonisti questa storia, sono direi sostanzialmente tre, e sono lui stesso che fa una di quelle stupidaggini che capitano, che capita raramente di fare nella propria vita, soprattutto se non si è portati per fare delle stupidaggini, quello che lui definisce uno scherzo da prete. Il secondo protagonista è il suo compagno di banco, nemmeno amico, semplicemente compagno di banco, Scagnolari. Scagnolari è chiaramente un archetipo, cioè tutti quanti abbiamo avuto uno Scagnolari in classe nella nostra vita, e perdonatemi la parola archetipo. Il terzo personaggio e terzo protagonista di questa storia è l'insegnante di scienze, meglio conosciuta come la Francheo. Quando ho letto questo racconto nel live finale del programma, diciamo che l'ovazione c'è stata solo al titolo della storia, che per alcuni era Scagnolari, per altri era la Francheo, per altri era semplicemente un altro. Chiamatelo come volete. Questa storia parla di uno scherzo fatto ad un compagno, parla di un compagno a cui le cose vanno male lì e forse andranno male sempre, e parla soprattutto di un'insegnante bella e terribile che in qualche modo segna la nostra vita. Lo confesso ora, perché solo ora, a 49 anni, trovo il coraggio di farlo. Avevo 15 anni in quei giorni, fine anni 70. È una mattina qualsiasi, a scuola. Istituto Tecnico Agrario di Stato, Pianezza, Torino. In classe c'è una lezione di non so cosa, io ascolto il professore in attesa dell'intervallo delle 10. Dietro di me è seduto Scagnolari. Scagnolari pesa almeno 100 kg. Scagnolari porta occhiali dalle lenti molto spesse, culi di bicchieri. Scagnolari non ha voglia di studiare ed è ripetente. Scagnolari ha gli occhiali spessi e della vita non vuole seccature. Vuole dormire ad occhi aperti in classe per tutta la mattina. E poi tornare a casa e riprendere a farsi gli affari suoi. Scagnolari si accontenta di poco: mangiare, fumare e guidare il suo motorino. A Scagnolari di tutto il resto non gliene frega niente. Tanto dice che se lo bocciano ancora andrà a lavorare da suo padre. Suona la campanella dell'intervallo, tutti fuori per 10 minuti. Rientro in classe e ciondolo fra i banchi. Tra pochi minuti inizia la lezione della Francheo, scienze. La professoressa Francheo è sui 40, è stupenda, bellissima, altera, algida, capelli neri cotonati come un leone, cattiva come una merda. Siamo tutti mezzi innamorati e del tutto terrorizzati da lei. È un po' come amare il proprio boia. Io della Francheo mi ricordo che era bellissima, ma gelida come un iceberg. Ogni volta che ci toccava andare alla lavagna perché eravamo interrogati, era veramente un bruttissimo momento. Poi c'era una paura terribile, terribile. E lei aveva messo giù un decalogo, per cui quando entrava lei noi dovevamo essere già tutti seduti, col quaderno aperto, il libro aperto, non ci doveva essere una mosca che volasse, e così era. Rientro in classe poco prima che suoni la campanella di fine intervallo. Sto per sedermi al mio posto quando vedo il diario di Scagnolari sul suo banco. Lui è ancora fuori. Prendo il suo diario e ho un attacco da scherzo da prete. Mai avuto prima e mai avuto dopo in tutta la mia vita.